Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore. Ok, quindi lui è Chris Carlson, ha una storia molto lunga nelle politiche radicali, penso che si possa tradurre così. Lui è qui stasera per presentare il suo ultimo libro, Now Utopia. That I usually read it on my computer. Okay, di solito lui legge un riassunto del suo libro, ma è stato in Italia da 10 giorni e ha visto che non funziona molto con le traduzioni, anche è troppo lungo, quindi farà un po' una versione improvvisata questa sera. So Now Utopia is a book about a new politics of work. And it comes from my experience going back to when I dropped out of college in the late 70s. And I had one skill that I could sell as a potential worker, which was to handle information, to work in the bureaucracy, in the office. Ok, quindi il libro è Now Utopia. È un po' il sommario della sua anche storia personale, che è iniziata quando era giovane ed era... doveva cominciare a lavorare e aveva capito che aveva solo un'abilità che poteva vendere ed era la disseminazione di informazioni. So I got a job in downtown San Francisco where as a temporary worker in banks and insurance companies. And I looked around at the other people who worked there. They looked a lot like me. They looked at me. I looked a lot like them. And we talked to each other and we found out that we were not bank workers. We were not office workers. We didn't believe in insurance, none of those things. And we were actually historians or philosophers or poets or dancers or many other things than what we were doing. And so it began the experience of a bifurcated life, a life divided into two. Quindi uno dei suoi primi lavori era nel centro finanziario di San Francisco, nelle grandi banche o assicurazioni, e quando è arrivato lì si è cominciato a vedere con altra gente che lavorava lì e si sono resi conto che il lavoro che facevano non era dove si rispecchiavano, non era la loro identità, ma avevano un'identità divisa e al di fuori del lavoro erano... storici o filosofi e poeti, e che il lavoro che facevano non era la loro identità, dove si riconoscevano. When I wrote the book, there's a little sort of joke title in it that comes from a local performance in San Francisco. Excuse me. What you see me doing isn't what I do. E quindi il libro, il titolo del libro viene da una specie di scherzo o modo di dire che avevano in San Francisco, che connesso nella storia del lavoro dove non si riconoscevano, e che vuol dire quello che mi vedi fare non è quello che faccio. So it speaks to this idea that we've accepted a world in which we do one thing for money. It's usually something quite stupid. It's a job that we think is not something we would choose freely, but we have to do it because we need money to pay our bills, obviously. But to feel fully human, fully engaged in the possibilities of our lives, we do another job, but it's not really a job. It's an activity that we engage in that looks like work, but we do it for free. We do it because we have a passion for it. E questo era connesso al fatto che quello che facevano per denaro, il lavoro salariato, non era veramente quello che volevano fare. Dovevano farlo per poter sopravvivere, lo consideravano una cosa noiosa, stupida. Ma quello che veramente volevano fare lo facevano al di fuori dal lavoro salariato. So in the back in the 1980s, I participated in a collective that produced a magazine, some of you might have seen, called Processed World. And it was an analysis of the underside of the information age, the bad truth of what it was like to work in the modern workplace. And one of our recurrent features in each issue were what we called tales of toil, stories of how awful the jobs really were. And that was part of what we did in the magazine, but we also had humor and poetry and satire and many other things. because it was a creative outlet for those of us who had these really idiotic jobs in the financial district, and this was a way for us to communicate with each other. All'inizio degli anni '80 lui era coinvolto in una rivista che si chiama Process World, che analizzava il mondo dell'informazione in quel campo dove lavoravano, e la rivista aveva molta satira politica, poesie, critiche, analisi di questo mondo dove loro veramente si sentivano che vendevano la loro creatività, il loro lavoro, ma non era veramente quello che volevano fare. Consideravano il loro lavoro salariato, stupido e noioso. So one of the recurrent things we looked at were the labor struggles that were happening around us, slowly diminishing during the 1980s, where people were on strike or they were trying to start a union, and the kind of old style labor politics, which we were not part of. We were very critical of that because we didn't really think there was any point to organize in a bank, to take over the bank. Even the best case was to occupy a bank. But for what? To close the doors and leave and never go back. So this problem then of the labor movement was part of what influenced my thinking. And I wanted to be involved with radical labor politics, but there weren't any. And so over time, I started to look, where could it be that you could see a radical impulse related to organizing, collective social life, and work? And it turned out to be when we're not at work. Nella rivista avevano anche una critica, un'analisi critica della vecchia sinistra, se vuoi, del movimento dei sindacati, della classe lavoratrice, e si erano resi conto che quel modello non funzionava più. Per esempio, perché occupare una banca o perché protestare? Loro non volevano lavorare lì, non volevano solo avere condizioni di lavoro migliori, volevano chiudere la banca. E quindi attraverso questo processo di analisi si sono resi conto che quello che veramente volevano fare era al di fuori del lavoro e non preservare il lavoro. So in spite of that hostility, if you will, to organized labor in its well-known forms, we still, and I still felt very strongly that class is a crucial component of our lives. To understand how we reproduce the world we're in, we need to understand class. This is very difficult in the United States, because in the United States, everybody thinks they're in the middle class, everybody, except the people that are pushing a shopping cart down the street looking for aluminum cans, or the people riding in a Learjet to their next golf course. Quindi nonostante questa critica dei vecchi movimenti di sinistra, per loro il concetto di classe era rimasto importante, il concetto di classe lavoratrice. E questa è una condizione speciale negli Stati Uniti, che ormai non, la coscienza di classe è sparita. Tutti si considerano nella classe media, tutti tranne i più poveri, che sono i senza tetto, quelli che vedi, che si vede spingere il carrello della spesa con tutti i loro beni lì, o i super ricchi. Tutti gli altri si considerano nella classe media, non si identificano più come classe lavoratrice. So it hasn't been my goal to make everybody identify with the working class necessarily, but I do argue that whether we think so or not, everyone is more or less in the working class. We sell ourselves to a job, and in that point of sale, when we are hired for a job, we lose control over what we do. We do what we're told. We do the job they want us to do, not the job we think we should do. Otherwise, we're not going to have a job. We're not going to be paid. And that's the crucial element that makes us go to work every day and produce a mess, to produce this crazy world we're in, instead of a world that we might choose ourselves freely. Quindi per lui era importante riproporre questo concetto di classe, perché alla fin fine dobbiamo sempre tutti vendere la forza lavoro, la nostra creatività, facendo dei lavori che non vogliamo fare, che magari distruggono anche il mondo, che sono nocivi ad altri esseri umani e alla terra in generale. Sorry, what did you say the last time? that we go to work every day and produce a mess. Okay, and we could be that. Producing a world that we wanted okay. to live in. E quindi vuole proporre questo concetto di invece di andare al lavoro tutti i giorni e riprodurre un mondo che è contro di noi, che è contro la terra, di riprodurre invece un mondo che sostiene sia la terra che gli esseri umani. Vuoi prendere tu se ci provo. So the problem, of course, for people who identify as middle class, which again is people working in a factory or working in an office or in a store or a restaurant, they all think, I'm middle class, is that their sense of political agency, the place where they might take action, is not where they work. It's after work. It's when they go shopping. And so most of the political movements in North America for the last 20 or 30 years have not focused on organizing politics of work, but instead a politics of consumption. And the issue is what you buy. Don't buy this product. Do buy that product. Don't eat this. Do eat that. And so on. And this has been extremely demobilizing politically, because it ends up being a question of just shopping choices instead of collective self-activity. Allora, in pratica quello che dice... che sì, l'uomo sta a quello che deve fare al lavoro, ma in effetti la sua vita comincia al di fuori del posto di lavoro, dove viene confrontato con delle scelte, cioè il preferirei scelte, cioè sono devo decidere se comprare più quello o quell'altro, e quindi sono delle scelte personali che creano l'individuo, che non sta al io sono il posto di lavoro, devo occuparmi di questo e di quest'altro, al di fuori del posto di lavoro posso veramente essere me stesso e mettere in pratica le mie scelte, insomma. Se posso aggiungere qualcosa, questa è anche una situazione degli Stati Uniti dove la focalizzazione si è spostata dalla lotta di classe nel posto di lavoro al consumo, quindi che si è non è così radicale come lotta politica, che invece di guardare il posto di lavoro come luogo di lotte si è spostato e quindi è diventato meno radicale nello shopping, nel fare di cosa si compra, quindi che la politica si è spostata, invece di guardare come organizzarsi nel posto di lavoro adesso si guarda al consumo senza guardare cosa si fa tutto il giorno. So this concept of class, then, I use to really rely on a sort of concept of class composition to organize our understanding of how the world has changed and where we are today. So you go back to the 1960s and early 70s when there's mass social upheavals and refusal of work and strikes and absenteeism and all these struggles are underway. And there's a crisis of profitability across the planet for capitalism. There's a reemergence of the world market, etc. The U.S. breaks from the dollar from the gold standard, which allows for this financialization to begin. And the price of oil in the early 70s doubles or even triples. And that sets in motion some deep changes that I'll talk about in the next moment. Quindi in questo movimento da guardare la lotta di classe dal posto di lavoro invece al consumo è accaduto nello stesso momento che dagli anni 70 che c'è stata la crisi, cominciata questa crisi che è poi culminata negli ultimi anni e con la crisi del petrolio, la crisi in generale, scusa, what did you say the last thing? Because I saw she was going to say. Yeah, the price of oil goes up and it sets in motion a series of deep changes. That's why I looked. Okay. E adesso parlerà di questi cambiamenti proprio strutturali anche della composizione di classe, dove tutti adesso invece di identificarsi come lavoratori o lavoratrici si identificano nella classe media. E questo è proprio un concetto importante nel suo libro, questo spostamento dal guardare come si organizza il lavoro, cosa si fa, le proteste, tutte le lotte di classe che sono poi state spostate verso un'analisi del consumo. Quindi basta che continui a lavorare senza pensare a quello che fai, senza avere una critica del lavoro, e invece cominci a criticare quello che compri. E secondo lui e molti altri critici, questo è stato un po' un movimento sbagliato perché non si guarda più quello che si fa tutto il giorno, si guarda solo quello dove spendi i soldi. So the old working class that was living a somewhat familiar life, working together in factories, going to the same places of work, living in cities and towns together. Primarily, I'm talking about the United States, but I think some of this is true in various parts of Europe also. They broke apart. The restructuring of capital reproduction of life during the 1970s led to the breakdown of communities where people lived and people began to move. The places where they worked were destroyed and moved to other parts of the world. It's in Mexico and China, etc. And that process has been going on for 30 years. But it led to the old ways of people knowing each other and trusting each other and working together and struggling to be destroyed. Quindi dall'inizio della crisi degli anni 70 ha portato molti cambiamenti negli Stati Uniti. C'era una coesione nella classe lavoratrice, sia di quartiere che sia di fabbrica o di posti di lavoro, dove c'era un certo tipo di solidarietà e di comunità. E con l'avvento della crisi hanno cominciato a chiudere fabbriche, a spostarle in Cina o in Messico e quindi hanno disintegrato questo senso di comunità, di solidarietà, e hanno cominciato a o incrementato un senso di isolazione tra la gente, che quindi era più difficile poi ricominciare delle lotte di classe. And so this sort of cycle of decomposition of the working class led us to the situation we're in today, or from the last 20 years, where life is now much more rapid. Everything has been sped up. We're going faster and faster. So now it's typical, I'm sure you've had the experience, where you have to make 5 phone calls and 3 emails and 10 text messages just to see your friend in 2 weeks for a cup of coffee. It used to be common to knock on the door and they would say, come in and have a cup of coffee. But we can't do that anymore because we're all too busy. We're all running around frantically trying to keep up. Quindi questo processo ha anche accelerato il ritmo di vita, specialmente con la tecnologia, dove ha fatto l'esempio che bisogna chiamarsi 5 volte, 3 email, 5 text o messaggini, si dice in italiano, per potersi incontrare fra 2 settimane. Invece una volta si poteva visitarsi uno con l'altro solo bussando alla porta di casa. Quindi è proprio una disintegrazione del tessuto sociale e della composizione dell'identità di classe che la popolazione ha. Obviously, this is extremely simplified and shortened because I don't want to go. I want to talk to you and have a discussion, so I don't want to go too long. You can read the book for a more coherent explanation. But anyway, we live in this period of time in which we've been fragmented and atomized, and slowly but surely, new communities are beginning to come back together. And the place where you see them is not in a traditional workplace. It's not very often in neighborhoods where we know each other because we don't know each other. People move in, they move out, they work together, they leave. But where we begin to know each other is even it's places like this, in a centro sociale or a community project. You see these things going on the wall behind me. Critical mass rides, the Ciclo Officina, the community gardens, the various types of projects that people are doing for free. In the time when they're not at work, when they're not working for money, they come together with a new spirit and a new relationship to technology and to each other and to their own work. And they start to create something new. So the book argues that this is the turning point where we start to see the recomposition of the working class, all of us together, on an agenda of our own choosing, something that we're going to do that's going to change the world. Quindi questo processo ha portato a una disintegrazione delle comunità, non ci si conosce più al lavoro o nei quartieri, la gente cambia lavoro e cambia casa molto frequentemente, specialmente negli Stati Uniti, e non si conosce, non si ha più relazioni che durano, tutto è frammentario, frammentato, isolato, atomizzato. E quello che Chris porta con questo libro dice che ci sono nuovi sensi di comunità che si stanno formando al di fuori delle vecchie organizzazioni di classe basate sul lavoro. E queste organizzazioni sono nei centri sociali come questo, negli Stati Uniti, magari più di qua, molte comunità basate sugli orti di quartiere. Officine di riparazione per biciclette, ce ne sono tante in Italia, anche in Messico, negli Stati Uniti, e altri magari festival dove la gente si accomuna cercando di ricreare un senso di comunità e solidarietà al di fuori dei vecchi parametri, delle lotte di classe basate sul lavoro. I think technology is at the heart of the matter because a lot of us are now thinking about how to use the waste stream of modern capitalism to create a new technological foundation for our lives. The discarded, thrown away bicycles, the empty lots of the spaces of a capitalist city that are not being used, the open bandwidth online where we can create free spaces and hacker zones and open software projects. These are the kinds of ways that we begin to think about appropriating the technosphere. And it looks very simple. If you're fixing your bicycle, you make a fix your flat tire, fine. You're growing your own tomatoes, fine. That's great. And it looks kind of trivial, though, like who cares? But it's actually part of a deeper logic, and I'll explain that. Quindi la tecnologia diventa un fattore importantissimo in questa nuova ricomposizione di classe, sia che si riparano vecchie biciclette o facendo degli orti o con la banda, si dice banda dell'internet, la banda più, libera dell'internet. E quindi c'è una nuova creatività nell'usare il rifiuto del capitalismo, specialmente nella tecnologia, o anche in lotti o edifici abbandonati che possono essere riappropriati per riformare una comunità, un senso di solidarietà. As opposed to the sort of simple individual act of growing a tomato or fixing a flat tire, there are these interesting historical examples that put it in a larger context. A very good example from the late 1960s, women began to meet in groups called consciousness-raising groups. And one of the key elements that grew out of that was a women's self-help healthcare movement that ultimately changed healthcare completely, how we think about treating ourselves for disease and for well-being through this process of appropriating medical knowledge from the experts and diffusing it at the base of society, which women did from group to group, and then a couple of important books, of course, helped the process. Quindi è molto, l'aspetto importante va al di là dell'aiuto individuale che queste tecnologie possono portare, riparare la tua bicicletta, avere più accesso all'internet o avere il tuo orticello, di creare appunto delle reti di sostegno per la comunità. E uno degli esempi più importanti era il movimento femminista negli anni 70, che si formavano molti gruppi di studio, di sostegno fra di loro, e uno dei più importanti era della salute medica, healthcare, e molti gruppi degli anni 70, specialmente nell'area est degli Stati Uniti, hanno cominciato a parlare di medicina, medicina alternativa, anche lui non l'ha detto, ma lo aggiungo io That's okay, go ahead. attorno alle per esempio l'aborto, la cura, veramente basati più sul corpo femminile, e si sono riappropriati la scienza e la conoscenza della medicina per poi aiutarsi, avere veramente queste reti di sostegno, di solidarietà per le donne. E vari dei libri molto importanti sono usciti da un collettivo di donne, specialmente dell'area di Boston, che adesso sono usati in quasi tutte le piccole cliniche dove fanno aborti o dove ci sono per la salute delle donne. So that's one good example of a broad social movement of appropriating technical and scientific knowledge to the base. Another good example in the 1970s is the anti-nuclear movement, which depended on a lot of us, I was part of that, learning about energy production and what the science and technology was and how it worked. And of course, now we face the problem of having to reinvent the anti-nuclear movement because we've come many years since the last time we had to fight about it. And now they claim this is a solution for the global warming crisis, which it is not. So nevertheless, back in the 1970s, we were beneficiaries of some dissident scientists who came forward and started to explain this complicated technology and why it was a disaster. And with that bits of knowledge from these dissenters, we were able to expand a social movement again at the base of society, broadly appropriating scientific knowledge and contesting the experts, fighting against their ability to go forward with the agenda that essentially served the needs of capital and not of humans. Quindi questi movimenti femministi erano molto importanti anche per imparare a riappropriare un tipo di conoscenza di scienza medica per l'uso, non per il profitto, ma proprio per il beneficio degli esseri umani. Un altro movimento molto importante negli anni 70 in cui lui era coinvolto era il movimento contro l'energia nucleare, che adesso sta ritornando perché lo stanno riproponendo come una soluzione alla crisi energetica. E quello che succedeva in quei movimenti, anche molto simili ai movimenti femministi, era un apprendimento e uno studio della scienza, ma come riappropriazione dalla base e non solo lasciare l'opinione agli esperti che loro sanno tutto, sanno cosa è meglio per la società, ma fare uno studio delle scienze per poi poterle criticare ed offrire un'altra alternativa. E questo è molto importante adesso anche perché stanno, da Obama ad altri, stanno riproponendo il nucleare come un'alternativa alla crisi energetica. A smaller but important recent example is where we live in the San Francisco Bay Area. We have a governor, Terminator Schwarzenegger, and it wasn't very long ago, 2 years ago, that he made an announcement that we had a crisis because there was a small moth, a light brown apple moth, that was just going to destroy California agribusiness. And to solve the problem, the state of California was going to spray something over the entire 7 million people that live in the San Francisco Bay Area. And it took only a couple of weeks for a great social movement to erupt at the base of society, led by women, mostly with small children or pregnant, because they understood very well that if something's being sprayed to destroy an insect, it's not going to be good for them and their children. Many of them have scientific training. Many of them are very adept at research. And they found out very quickly what was really going on. Un altro movimento più contemporaneo, però che ha utilizzato gli stessi metodi, è molto focalizzato nell'area di San Francisco, era recentemente 2 anni fa. Schwarzenegger, come tutti sapete, purtroppo il governatore della California, c'è stata una crisi e lui ha chiamato situazione di emergenza. C'era un insetto, un tipo di farfalla, moth, non è proprio una farfalla, però assomiglia a una farfalla, che aveva intaccato degli alberi di frutta. E quindi hanno chiamato questa crisi e avrebbero e l'hanno fatto in certe zone più rurali, non nelle zone più urbane, di spargere con degli aeroplani questi insetticidi che non si sapeva bene che cos'era, però volevano farlo sulla zona di San Francisco e tutta l'area di San Francisco che è molto urbana, ci sono 6 milioni di persone. E un movimento di nuovo capeggiato da donne che hanno studiato cos'erano questi insetticidi, ne erano donne con bambini o donne incinte, si sono riappropriati questa conoscenza della scienza, delle queste sostanze chimiche, e hanno protestato e sono riuscite a non far che usassero questi aeroplani per spargere queste sostanze nocive. Quindi lì è stata veramente una vittoria. Like other moments, we had not just the movement from below, but in this case some scientists who are specialists in insects, entomologists, who held a press conference, and they announced that the governor was lying. There wasn't a crisis. And then the extent to which the light brown apple moth existed in California had been true for many years. So their role is very important, because there are people with technical skills, professionals, who sometimes break with their role, who stop behaving like good professionals, which means having no politics and remaining silent, and speak up and actually support the social movement that's emerging and provide scientific and expertise to back that social movement instead of fighting it. C'è stata una connessione, una collaborazione importante. Il primo, il movimento era iniziato dalla base, dalle donne con bambini, però ci sono stati anche degli scienziati veri e propri professionisti che si sono collegati con questo movimento e hanno rotto con quello che si chiama la loro la condizione di professionisti, che Chris dice che quando si è professionisti non si può avere un'opinione politica, bisogna solo continuare con le regole del proprio lavoro. E hanno denunciato la situazione, hanno detto che Schwarzenegger stava mentendo, che questo insetto ormai era lì da decenni e che non era una crisi. E quindi quello è stato un momento di connessione tra un movimento di base, un movimento popolare e gente con conoscenza e expertise, esperti che sono usciti dal loro ruolo di professionisti e hanno preso una posizione. Ok, now it's your turn again. Get ready. So these examples of these social movements appropriating science and technology and using them politically to stop the direction of capital development are very important to understand the simple acts that you see going behind me of gardening and bicycling and fixing the bicycle and simple things. But in that larger context, it means something larger. For the first time, broadly understood, all of us who work in the working class are contesting the direction of science and technology in an increasingly coherent fashion from below. Lui vuole segnalare l'importanza di queste piccole proteste, queste piccole manifestazioni fatte dai singoli, e, ad esempio al di fuori di quello che è stato fatto per questa finta crisi che c'è stata in California, anche il poter fare qualcosa individualmente, ad esempio con i quartieri dove i singoli individui hanno dei piccoli orti dove ci si confronta si parla di esperienze diverse e le persone si raccontano, hanno dei, cioè, come si può dire, si scambiano opinioni e cercano praticamente di andare contro quello che alla fine della fiera succede, rimanendo, come si può dire, Susanna? Rimanendo. Facendo la differenza, nel senso portando qualcosa di proprio e facendo la differenza rispetto alle altre persone, cioè mettendo qualcosa di personale nelle attività quotidiane della propria vita. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. So in addition to this challenge around the direction of science and technology and capitalist development, you also have the beginning of the repair of our fragmentation, of our atomization, the recomposition of the working class in these kinds of activities, where people get to know each other when they put their hands in the ground and share ideas of how to grow a zucchini or a tomato and find out where the water is and learn about the sunshine and the soil. Or if you're fixing a bicycle with somebody and you help them learn how to fix the brakes, something very beautiful in that cooperative act is going on that leads to a new kind of connection, a new kind of friendship, a new kind of trust. And those are the kind of relationships that we need if we want to talk about a revolution, if we want to talk about a different way of life. We really need to have those kinds of broad relationships growing as opposed to trying to do it from our isolation. Appunto queste piccole singole iniziative che vengono fatte dal singolo individuo fanno la differenza e portano una piccola rivoluzione interna in queste piccole comunità dove appunto avvengono le riparazioni di biciclette, dove ci si ritrova per produrre dei propri pomodori, zucchine, dove si parla di qualsiasi cosa la quale persona magari può preoccupare e ci si dà una mano, nel senso ci si trova magari in una ciclofficina, come si dice, ciclofficina, o in un orto e da lì ci si aiuta non soltanto a raccogliere patate e pomodori, ma ognuno porta del suo per rivoluzionare quello che ci sta attorno, per migliorare, insomma. So, of course, the people doing these activities, call them Nowtopians, are not the whole working class. It's not these people alone who can change the world or us together alone. No, we have to be in connection with all the proletarians in China and India and Mexico and Brazil and everywhere. So the social movement that we start sets an example, starts to create a new logic of human work and its relationship to the ecology of the planet. But we can't imagine that we can do it without the connections to the broader social movements that are out there, not just ours, but other ones as well. So there's the questions of power, the government, the state, larger economic entities. These are things that we will have to address eventually. But for the moment, we have to grow our strength, our own connections, and our own ability to act for ourselves from below right now, which is what I think is already happening in these kinds of activities. Quindi la parte importante è di continuare a formare queste relazioni di solidarietà e di sostegno. Sono ancora nell'infanzia, non tutta la classe lavoratrice o la gente che lavora si identifica in questi movimenti o gruppi di Now Utopia. Ci sono naturalmente altre aspettative o altri fattori molto più importanti come lo Stato, il sistema capitalista, una grande classe lavoratrice nel terzo mondo e sono fattori molto importanti che non si possono ignorare per poter cambiare la società. Però, almeno nel mondo occidentale, cercare di continuare a coltivare queste relazioni di solidarietà, di conoscenza veramente fatta dalla base, dell'imparare la scienza, la tecnologia, di come interagire nel mondo. Con il mondo e con la natura, per il sostegno non del capitalismo, ma dell'essere umano, è importante per co costruire un movimento, come per esempio il vostro centro qua, è uno degli esempi di ciò. So that's really what I wanted to say, and I could go on a lot, but I think it's more interesting to start having you guys participate by having, I'm sure you have questions, and some people will have sharp criticisms and disagreements, and I look forward to that. So thank you very much for your attention. Voglio aggiungere che non l'abbiamo detto prima, che questo è un riassunto molto succinto del suo libro, quindi vi incoraggiamo veramente a leggere il libro perché va molto più nel dettaglio sia di esempi concreti di questi movimenti che ne abbiamo appena parlato, ma anche di un'analisi più profonda sia dei movimenti di classe, del concetto di ricomposizione di classe, sia di una critica della vecchia sinistra, però lui vorrebbe adesso aprire il dibattito con voi e vedere se ci sono domande o critiche a quello che ha appena esposto. Vi ringrazio di essere qua. Ci sono delle domande. Sarebbe anche interessante sentire da voi, dato che siete coinvolti in questo centro, che veramente è bellissimo da vedere. Devo dire, I am No, Edina, that's fine. Yeah, personal log, please, good. che sono cresciuta in Ticino, me ne sono andata quando avevo 20 anni, però quando avevo 18 anni, questo era ancora negli anni 80, avevamo cercato anche con Maurizio lì ad aprire un piccolo centro sociale, ci avevano proprio battuto giù, non c'era nessuna aspettativa, quindi tornare e vedere di quello che siete riusciti a fare è veramente bellissimo da vedere. Magari anche se potete un po' parlare della vostra esperienza, di quello che succede qua, se vedete qualche riflesso di quello che ha spiegato lui qua nel Ticino, se ci sono oltre al centro sociale qua altre iniziative che sono simili o se avete critiche o domande sulla situazione di San Francisco o della California, sarebbe interessante I think they avere. want to ask about critical mass too. O se volete sapere un po' più di Critical Mass, che è uno dei movimenti che anche lui era coinvolto sia dall'inizio, queste dimostrazioni di biciclette, che, how many years? 17 years? 18, we just passed the 18th 18 birthday. anni adesso da San Francisco, e ogni mese ha da 1.000 a 3.000 persone che facciamo il giro di San Francisco e interrompiamo, o facciamo il traffico. Dicono che interrompiamo il traffico, noi biciclettisti diciamo che noi siamo il traffico. E so che anche qua a Lugano ogni tanto c'è. Io faccio una domanda a te, così. C'entra nell'ultima cosa che ha detto, facendo riferimento alla ricomposizione di classe nell'Occidente, dove appunto il lavoro è diventato creativo, precario, e quindi la fabbrica si è un po' spenta, e quindi la classe che si ritrovava sotto la fabbrica non c'è più. Però sta crescendo in maniera incredibile la classe nei paesi, tra virgolette, emergenti, che sono l'India, la Cina e il Brasile. Che tipo di collegamento può crearsi, può esserci? In Cina la critical mass è cinese fondamentalmente, ma la La Cina, cosa? la critical mass Mess, è sì. cinese fondamentalmente, ma la Cina non ha più la critical mass perché adesso sono tutti, non tutti, ma dico le grandi città, sono automobilizzate. Sì. Mi consentite un neologismo. Ecco, come può rientrare la critical mass in Cina? È un po' questo. So he said class composition has changed because there's no more factories anymore, and so the process that you describe. But he says that same class composition is emerging in China and India and Brazil because of the industry there. And then he moved on to saying that the real critical mass was in China because there were so many people, That's where I got the name. right? But they are moving towards a car culture too. And so, what connection can there be in terms of con la critical mass a San Francisco, for example, with the Chinese? It's difficult to make a. We have a lot of Chinese people in San Francisco, and so I think that there's hope that there's a model of appropriating urban space that's embedded in critical mass experience and a way of thinking about cities' development that's a much more ecologically sensible way of organizing the urban environment that critical mass points to without ever being explicit. And China's facing a horrible crisis on many levels. The working class's experience is terrible. The ecology of China is a major disaster that needs to be addressed. And the social movements in China are beginning to emerge. And what we can hope, I think, is that there's some communication through the Chinese community in San Francisco, the diaspora of Chinese, sending back information, sending back the ideas that are percolating, spreading amongst people, not just in San Francisco, but throughout the United States and Europe and Canada and so on. But it's not a direct relationship because critical mass is not an organization, it's an event. Quindi a San Francisco c'è una grande popolazione di immigranti cinesi da generazioni, sono già lì dal 1800 ma continuano a venire. E naturalmente in Cina con l'industrializzazione lì c'è un nuovo senso di classe lavoratrice, ci sono tantissime proteste anche se non vengono menzionate nei media, e lui spera che attraverso gli immigrati cinesi nella zona della di San Francisco e della California in generale, che le idee di critical mass attorno alla solidarietà, all'ecologia, che possono poi essere ritrasmesse in Cina, perché naturalmente in Cina c'è anche un grandissimo problema ecologico che sta emergendo, perché appunto si stanno spostando verso un mezzo di trasporto con la macchina. Critical Mass non è un'organizzazione, è più un evento, non si potrebbe neanche definirlo a questo momento un movimento, è veramente decentralizzato. e quindi si spera che con questa, dato che avviene ogni mese, che gli immigranti cinesi poi possano portare queste idee di nuovo verso la Cina. Soddisfa la tua... Sì? Io volevo chiedere se c'è nella sua analisi una correlazione con la teoria della decrescita, la decrescita felice. Yes. Yes. I'm actually going from here to La Marche, to Ascoli Piceno, where there's some people decrescita felice. So I'm very interested in the ideas. I speak about the same idea very much, about we need to use less resources, but I think it's important to emphasize that we need to have a better life where we all live better, not just those of us who are relatively comfortable and wealthy now, but the entire planet, everybody on the planet could live quite well if that was the way we organized ourselves. And the main issue is redistribution, because there's enough, the Bolivians said it the best, there's enough of everything for everybody, but there's not enough for some people to have much more. And so decrescita gives us a chance to think about reorganizing the way we use energy, water, how we grow food, how we deal with communication and transport, and then to use much less of it to continue to have a very good life. But not just for us, we must share it. Quindi la risposta è sì, lui partirà domani per andare ad Ascoli Piceno, dove c'è la decrescita felice, e quindi per lui e come gli altri è una questione di ridistribuire tutte le risorse e di pensare in modo intelligente e critico come usare le risorse. Lui si identifica anche con questo, il detto della Bolivia, che c'è appena stata la conferenza lì, che c'è abbastanza per tutti, per avere abbastanza per vivere bene, ma non ce n'è abbastanza per pochi di avere di più. E quindi bisogna coinvolgersi in un modo critico a vedere come usare l'energia, come usare sistemi di comunicazione, di trasporto, tutto. Wow. L'acqua, tutto il sistema intorno al mangiare, all'alimentazione. Quindi coinvolgersi in modo critico è come riorganizzare e ridistribuire le risorse. Sì? La mia domanda è se ci sono molte comunità che stanno nascendo, non soltanto delle esperienze alle quali si partecipa soltanto in certe ore del giorno, So our question is if there are communities that are forming around this concept, not just that you go there and do your bit 2 or 3 hours a day or a week, but more like a 24-hour, living together. A little bit, not so much. And I think one of the reasons I wrote this book was because I think a lot of the activities that I refer to are done without much consciousness about their political meaning. And my job is to make people connect the political meaning of these very interesting activities that are self-emancipatory. They're in a state of exodus from the stupidity of the modern organization of work. But they don't necessarily see it that way. They don't necessarily think or talk about it that way. And so Nowtopia is really an attempt to promote this conversation, to promote this idea of how to understand our own activity in a deeper political and philosophical sense. Quindi lui dice un po', non troppo, un fattore in questi esperimenti, in queste attività, è che molta gente lo fa senza avere una coscienza politica critica, senza avere questa critica che lui ha appena esposto. Lo fanno più da un senso di voler fare qualcosa di diverso, più da un'emozione, da una sensazione di voler fare qualcosa al di fuori del lavoro noioso, stupido che hanno, che non si identificano, e quindi hanno queste attività senza però una coscienza radicale e politica, e quindi lui ha scritto questo libro per poter incrementare o coinvolgere tutte queste persone che sono coinvolte senza una coscienza politica, ma cominciare a coinvolgerle in un modo più politico in quello che stanno già facendo senza rendersi conto del potenziale che hanno, e quindi facendo questi tour, queste conversazioni, e di aumentare questo discorso e questa coscienza. Rispetto alle esperienze di cui parlava, che rapporto ci sono con i migranti, ad esempio i migranti latinoamericani che sono parecchio presenti, sì. Partecipano, c'è una rete diretta, ci sono dei contatti? Sì. Penso che sia importante tutto questo fare comunità, però molto spesso penso che sia un po', cioè ho la cura che rimanga un po' effimero, nel senso sì. La questione della migrazione, della repressione, sì. Viene un po'. Sì. Rimanga un po' rimanga per i bianchi americani. O ad esempio in Europa adesso in alcuni stati hanno messo delle chiare leggi sulla possibilità di sgomberare gli spazi occupati o queste esperienze senza più un avviso di polizia, ma con l'accordo del padrone di casa, ma semplicemente con un decreto di polizia che può intervenire a sgomberare. Sì. Quindi cioè, quello che pensavo che rimanesse un po' effimera. Pensavi che rimaneva? No, che ho paura che effimera. C'è tutto il contatto, tanto, ad esempio la questione migrante, sì. Come anche qua. Sì. So he's asking what relationship or what connection there are with migrants in the US, and if there is any communication with that, or if it's restricted towards one kind of, you know, demographics. And he's talking about also in Europe now they have direct laws or connect agreements between landlords and the police and the state, so that they can go in and just evict, you know, places like this, mm-hmm. or where immigrants work, mm-hmm. and so that makes it even harder, you know, to organize, mm-hmm. or to live. Mm-hmm. So, but his question was more: is what connection is there with immigrants groups? Well, it's less about groups and more about individuals in general in the United States. People are not in groups very much. But there are a number of immigrants who are part of aspects of what we're talking about. The community garden movement might be the best example, because every garden that appears always has immigrants working in it who come bringing their traditional way of doing agriculture, growing different kinds of fruits and vegetables. We have immigrants from Southeast Asia, immigrants from Mexico, from Central America, Africa in some cases, who bring their traditional practices and begin to share them and begin to make friends in new communities, which is part of that recomposition I was talking about. Also, a very interesting example was brought to my attention recently in Los Angeles. There's a new group called BC Digna, and it's a group of day laborers who got, somebody brought, created a mobile bicycle repair vehicle and went to the day laborers and said, you guys ride bicycles here in Los Angeles, we're here to help you fix your bikes for free. And they got so excited that they joined up with this effort, and they now have their own workshop that they run on a collective basis, and they're very intense about making it available for free to other immigrant groups. So there's a sort of a beginning. It's a beginning. It's just the start, and it's not that broad because, as Susan says, we live in a racist culture where we segregate ourselves very thoroughly, and we don't talk to people who aren't just like us very much. But in the Chicla Ficina that we have, that's a place where I talk to, if I'm there, a 10-year-old black kid or 14-year-old Latino immigrants, which I wouldn't talk to in my normal life. It just wouldn't happen. So these are the spaces in which the kinds of connections are beginning to emerge. Una piccola introduzione alla realtà americana, che è veramente molto segregata. Ci sono veramente quartieri di bianchi, quartieri latinoamericani, afroamericani. Quindi è una questione più di individui che di gruppi che vengono insieme. E i luoghi dove questo succede di più sono gli orti di quartiere, comuni e anche delle officine di riparazione di biciclette. Negli orti, specialmente gli immigrati dall'Asia del Sud e dal Centro America, portano le loro tradizioni di agricoltura, di coltivare gli orti, e quindi c'è più un'integrazione, perché molti degli immigranti erano contadini loro stessi o quasi contadini, quindi che hanno ancora una conoscenza molto viva e molto concreta di come coltivare il mangiare, quindi loro portano quella conoscenza negli orti urbani negli Stati Uniti. E poi c'è questo fenomeno nella zona di Los Angeles, day labor, huh? C'è questo fenomeno negli Stati Uniti, che specialmente latinoamericani che vanno in certi angoli delle città, specialmente vicino a negozi dove vendono materiali di costruzione, e vedi tantissimi latinoamericani che si appostano all'angolo e vengono assunti per la giornata da gente che costruisce case o edifici. Quindi si chiamano lavoratori di giorno, perché sono assunti solo per il giorno. E sono tutti senza sans-papier, senza documentazione. Un lavoro molto precario, senza nessuna protezione. Di solito sono anche lavori duri e difficili e pericolosi, e non hanno proprio nessuna protezione se vengono pagati male, se si feriscono durante il lavoro. E quindi molti di loro, essendo precari e poveri, si spostano a Los Angeles, che è incredibile anche pensarci, in bicicletta, perché è tutto autostrade lì. E quindi altri immigrati si sono accorti di questo fenomeno, che usano molto le biciclette, e hanno cominciato a fare queste officine di riparazione di biciclette portabili su camioncini, e vanno da posto a posto a riparare le loro biciclette quando sono rotte. E quindi gli immigrati che vengono assunti durante il giorno si sono molto entusiasmati di questo progetto, e hanno cominciato anche loro a avere le loro officine autogestite per riparare le biciclette. Quindi è un processo proprio nell'infanzia, ancora all'inizio, però è un modo per collegare questi movimenti e queste attività. E devo dire che probabilmente anche qua, però la segregazione razziale negli Stati Uniti è incredibile. Ho appena visto delle cartine di zone delle varie città, che erano fatte dei censimenti che fanno ogni 10 anni delle varie etnie, ma incredibile come le zone sono veramente separate. Anche a San Francisco, che è molto liberale, molto progressista, quartieri tutti afroamericani, tutti latinoamericani, tutti asiatici, tutti bianchi, c'è veramente pochissima integrazione. E quindi anche quello che diceva Chris, è molto difficile cominciare ad avere delle conversazioni così per strada, bisogna avere un'attività comune che ci porta in certi luoghi comuni, e gli orti, le biciclette, queste attività sono uno dei modi per rompere queste barriere razziali. È molto difficile, devo dire. Sì? A Bristol, di quello che parla lui? Di questi È una domanda? No, Ok. Se ha osservato questo movimento sta accadendo un po' dappertutto, in modo simile. In altre nazioni, in altri paesi? Sì, ad esempio anche in Italia si è manifestato in modo simile. Mm-hmm. So she's asking if you've seen it outside the United States, if you've seen, sure. You give concrete examples. Yeah, I've seen a lot of it in England. I've seen some in Denmark. I've seen some in Mexico. It's starting to appear, a number of these same ideas, the Chiclapachina, the gardening movement. Of course, people are doing free software work, guerrilla programming everywhere in the world, pretty much. Brazil also starting to have a lot of these things are showing up. I wrote in the first critical mass in Amazonia in January of 2009, and there was a real interest about this other way of thinking about bicycles. And now it's very big in Sao Paulo, a huge city, and in Chile there's a lot of, there's called Ciclistas Furiosas in Chile. Many, really very far and wide. Australia, New Zealand, of course, has some of the same things going on. So I think it has spread further than I expect to know. And wherever I travel, I find it. So there's a spirit of sort of interest in this kind of activity and in this way of framing it in terms of class politics. Whenever I go and speak, I always find people who are very interested in that. Small, but evidence. Quindi lui ha detto di sì in Inghilterra, come hai detto tu, anche in Danimarca, in Messico, in altri paesi nell'America Latina, in Cile, in Brasile. Lui era nell'Amazzonia nel 2009, in gennaio del 2009, e ha partecipato a una critical mass lì, e quindi si sta sviluppando una coscienza intorno a questi eventi, specialmente che intorno alla bicicletta come mezzo di trasporto, che non è solo un'alternativa alla macchina, ma anche un modo di creare comunità. E lui ha girato parecchio negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, due anni, a presentare il libro, e ovunque è andato ha trovato, a volte piccole attività, ma che ha trovato gruppi di gente che era coinvolta in queste attività. Yeah. Io vorrei sapere se c'è negli Stati Uniti un dibattito, una critica sugli OGM o bio nanotecnologie. Mm-hmm. Sembra che sia tutto liberalizzato. Sì, più qua. Sia un po' più lunga, anche se pian pianino sta prendendo strada, sì. Perché arriverà anche qua, arrivata in maniera più subito, per esempio la carne importata dal Brasile, così è stata foraggiata con gli OGM. Sì. Negli Stati Uniti, visto che anche in Svizzera ci sono fra le multinazionali più grosse in questo campo qua, se c'è un po' di dibattito. Sì. So he's asking if there is in the US any critique about GMO practice and bioengineering practices. There is a little, from what I hear, a little more here in terms of food and meat. Like they don't import meat from Brazil because that's how they feed the cattle. Yeah, GMOs with grains and things. Right. Mm-hmm. So he's asking if you know of anything going on. There's a Center for Genetics and Science in Society that's a very good think tank of alternative analysis of these questions. There are a great number of organizations who are dealing with the question of genetically modified food and are protesting it in the government, are pressuring the government to stop releasing them into the environment and so that, you know, stop legalizing them. But given all that argument at the policy level, there's a grassroots refusal of GMOs. People won't buy them. And one of the great arguments happening in the United States right now is to force the government to stop its plan to prevent people from labeling. The government is trying to make it illegal for a company who sells milk or anything to say it has no GMO in it. That they do that now. It says no GMO, and those sell very well. People want to buy food with no GMOs. But the government wants to make it illegal to have no GMO on the label so that you can't tell. And this is the only reason we have as many people buying genetically modified food in the United States as we do, is for the most part we don't know. And that's been a big problem, and there's a lot of people fighting this, but we're not strong enough to overcome the power of Cargill and Monsanto. They own the government completely, total power. So we have not won yet. Sta succedendo a due livelli. Uno è nelle organizzazioni non governative che sono a Washington e stanno cercando di cambiare le leggi, fare pressione al governo. E poi c'è anche un movimento più di base, grassroots, di fare pressione. Il problema più grande a questo momento è che per adesso si può mettere contraddistinguere. Scusa? Sì, ma l'etichetta, esatto, dicendo questi sono no OMG in italiano, sì, sì, sì, al sì, contrario. Sì. E il governo stesso vuole fare quello illegale, così che non si può distinguere l'uno dall'altro. Adesso si può, e il governo stesso sta cercando di farlo illegale, di poter avere questa etichetta. Adesso i prodotti non ONG sono, vendono bene, perché la gente è abbastanza cosciente di questo, però c'è molta pressione dalla parte del governo, naturalmente sostenuto dalle grandi multinazionali, di renderlo illegale, di contraddistinguere i due tipi di prodotti. È una lotta lunga e dura, naturalmente le multinazionali hanno moltissimo potere. Sì. Mi chiedevo se San Francisco, California, movimenti come Critical Mass erano tuttora legati ancora a movimenti come Food Not Bombs o alla cultura del riciclaggio fuori dei supermercati, o anche semplicemente, cioè più largamente, al movimento squatter. So you want to know if Critical Mass is was or is still connected to Funabonds and squatters and dumpster diving and mm-hmm. kind of that kind of alternative. Again, Critical Mass is not an organization, so it doesn't really have a relationship as an organization with any other organization. There are people from Food Not Bombs who have been enthusiastic participants in Critical Mass from time to time. Sometimes they provide food at the end of the ride. We show up, there's food, thank you very much, Food Not Bombs. We have almost no squatting, very little. There's some that's completely invisible, where you can't know about it, because if you find out, then the police find out, and then it's over. So if you're squatting, you can't tell anybody. It has to be a secret. And so there's no movement of squatting. There's some very small groups that are they're successful because they're secret. So you can't say there's a relationship with that. There's very few people even try, because it seems so impossible in the United States. But in general, dissident political efforts have always been enthusiastic about Critical Mass, and sometimes tried to colonize it and turn it to their goals. And then it's a question of we resist. Critical Mass has no duty to serve some other purpose. It serves its own purpose, and you're welcome to come and present political ideas and argue for the ride to go in a specific direction to a demonstration or a strike, which we've done. But it's very often the case that people don't want to go to something else, and Critical Mass is not available to go and do something for somebody else's cause. So it's a somewhat ambiguous relationship. Critical Mass is not an scusate. Critical Mass non è un'organizzazione, non c'è, è veramente solo un evento. Ogni un venerdì al mese ci si trova a una certa ora, e quindi le relazioni che ci sono con altri movimenti sono veramente fatti da individui. Food No Bomb, c'è gente che è coinvolta con Food No Bomb e partecipa anche a Critical Mass. A volte Food No Bomb ha portato, alla fine del giro in bicicletta, ha portato del mangiare lì, però non è che ci sia una collaborazione stretta in certi eventi, perché appunto Critical Mass è decentralizzata, non è un'organizzazione. La relazione con l'occupazione, gli squat, non è esistente, perché il movimento di occupazione non ce n'è. Negli Stati Uniti le leggi sono molto severe, la polizia è molto severa. Ci sono degli squat a San Francisco, ma sono segreti. Veramente, se qualcuno occupa delle case non lo fa sapere a nessuno, neanche agli amici più fidati, perché appena si viene a scoprire vengono sgomberati immediatamente. E in generale, perché Critical Mass non è un'organizzazione, non è che può dare supporto ad altri eventi come proteste in modo più organizzato. Ci sono state delle occasioni dove ogni volta non si sa mai l'itinerario viene fatto spontaneamente o qualcuno prende un po' l'iniziativa di andare a fare un giro, e a volte si è andati a sostenere un evento o una protesta, però è veramente molto spontanea come evento, quindi è difficile avere delle relazioni più concrete in quel senso, perché non è un'organizzazione, è veramente solo un evento. Sì? Wait, she had her hand up first. Oh, non ho visto. Dove? No, ragazza, ok. C'è lo stesso discorso? Sì. A few ideas. Because it's not really a question, but a lot of ideas are in my mind now. So I'm going to try to tell you something. Okay. In English. When you were talking about this kind of movement, they grow up like a part of the society. They always grow up, they are created a part of the like real society. Mm-hmm. And this is the good part in one way. You know, it's like they work because they are a part. And is the strongest too sometimes. But in the other side, in the other way, it's like it's not the problem too. It's not why they are not working so well. It's not a real organization. And I don't know, one way you think it's good, but in the other way, how can you include more people if it's like this? You know, it's a part. So a lot of people say, you know, just these different people. How can you include more people? And how can you include the society in that? Hmm. Do you want to do it in Italian for the rest of every? allora, quando all'inizio parlava di questi movimenti di queste azioni di gruppo di altre comunità, eccetera, che vengono fatte, sono fatte separatamente dalla società, no? Sono persone che si riuniscono e che creano delle cose, creano dei movimenti, che sia l'orto, che sia la bicicletteria, tutte queste cose, rimangono comunque sempre a parte della società, non hanno un'organizzazione. E quindi c'è, cioè, da una parte la sua forza, il fatto di essere separati dalla società, no? La forza di questi movimenti. Dall'altra parte potrebbe essere una debolezza, perché comunque in questo modo non si includono più persone in questi movimenti, ci rimangono sempre nascosti, c'è poca informazione, e rimanendo a parte non organizzati, è una cosa unica, rischiano di perdere la loro forza. It's a very good question. I think that there is a sort of a dialectic always going on that I write about in some depth in the book, of a trying to escape and then being pulled back in. So the exodus and then the co-optation, the recuperation. And every project that we do can't really escape. It can't, as you say, it's part of this society. It's not part of another society, it's this one. But it's the beginning of a different way of doing things. So I think when we learn to cooperate better, when we have practice at trusting each other in these projects, our imaginations begin to shift. We start to think differently about what we might do together on a broader scale. So it's not so much a necessity to recruit people to do these projects. It's fine if they just learn they exist and then maybe have a taste of them, show up and try it out or have a conversation with you or me. And then they start to think a little bit differently, because so there's an example, a real example of that things can be done differently. And I think we live in a time in history where many people don't believe that. They just think this is the one way the world is. It's always about money, and that's it. Yeah, that's why maybe I would buy your book for my mom. Yeah, there you go. Perfect. Perfect. Quindi ha detto che è una buona domanda, e c'è sempre questa tensione dialettica tra il creare nuove idee, nuovi movimenti, senza però essere recuperati dal capitalismo per poi essere rivenduto come un nuovo prodotto. E quindi da una parte questi movimenti radicali vogliono rimanere al di fuori della società per mantenere un senso radicale, ma dall'altro bisogna coinvolgere tutta la società, naturalmente, perché se si vuole cambiare la società non si può solo farlo da soli in questi gruppuscoli anonimi o underground. E quindi è una tensione che c'è sempre stata anche in altri movimenti, come rimanere radicali, proporre soluzioni e alternative radicali senza essere poi cooptati una volta che diventa un movimento di massa, che poi diventa meno radicale e meno critico della società, diventa solo un prodotto da poter essere venduto. E lui dice che il nocciolo non è soltanto di far partecipare concretamente a certe attività la gente, ma di stimolare l'immaginazione, così che altra gente può cominciare a fare pensare in modo diverso e magari iniziare loro stessi altri progetti, altri movimenti basati sulla possibilità di creare una società diversa, perché adesso siamo veramente un po' restritti nell'immaginazione che questa è l'unica società che riusciamo a costruire, ad organizzare, non c'è un'alternativa, no? Che l'unico modo che possiamo vivere è basato sul denaro, sul profitto, sul capitalismo, e c'è stata un po' come una morte dell'immaginazione, della creatività, di riuscire a immaginare un modo diverso di vivere. Quindi è più stimolando il pensiero radicale, critico, l'immaginazione, invece che coinvolgere direttamente, e dando esempio di modi alternativi di organizzare la vita. Bene per tua mamma. Sì? You wanted to talk. Sì, niente, è un po' una domanda, forse è già stata fatta, ma volevo capire perché, cioè, né per dirla breve, forse è una domanda un po' semplice, ma dopo la critical mass, cosa resta nella gente? Mm-hmm. Nel senso, perché in fondo sì, è un po' un tentativo di riconquistare una certa consapevolezza. Se 20 anni fa, 30 anni fa sono nati certi movimenti e avevano già questa consapevolezza. Diciamo, la comunità oggi si cerca di ricostruire quanto un sistema distrutto prima di fare qualcosa di nuovo, no? Mm-hmm. Il fatto di ricominciare a far capire alla gente il senso dell'altro, del fare assieme. Mm-hmm. Perché anche questo è il tentativo di questa esperienza. Ma dopo questa esperienza, voi che l'avete più esperienza e avete coinvolto più gente, resta qualcosa nel tessuto sociale? Nel senso, ci sono, no, perché anche sentire dire che non ci sono movimenti squadro, che non c'è, o tutte queste cose, ora alla fine cosa resta? Mm-hmm. So what's left after critical mass is saying that part of this movement is to help people understand the coming together, the solidarity, the reconnecting, not just the activity in itself, but kind of, you know, the reconnection of community and mm-hmm. of integration. And he says he was kind of taken aback that there's no squatting movement, for example, mm-hmm. in the US. So after critical mass, what's there? What? What's left? Yeah, then what? Not much. Not very much. In fact, I mean, I think the truth of the United States is we are very, very fragmented. And there are not very many examples where people are building social movements in the way we have understood them, coming from the 20th century and even the 19th century. And one of the things I've tried to emphasize is that I think we're in a moment where we're trying to imagine new social movements that don't look like things that happened before. And critical mass was a little bit of an early breakthrough in a what we call a prefigurative behavior. It actually enacts the world we want to live in right now. But we need more of those. And so far, we haven't come up with them. We're actually still working to figure that out. And it's interesting that we haven't gone beyond that yet. And I think it's just a moment's coming. It's like it's still ahead of us. What will a political activity look like? Will it have any relationship to what we once knew of protest, of direct action, of various other forms, unions, parties? I don't know. I kind of think it's going to be really different. But what is different? It's very hard to say. Critical mass shows in one direction, but it's not necessarily a model that can be applied to lots of other things. So we're stumped. We're actually working on that. Purtroppo non molto. La situazione negli Stati Uniti è che la maggior parte della popolazione è veramente isolata, è frammentata. E quindi è un po' un recupero di vecchie modi di essere solidali, di avere comunità, relazioni l'uno con l'altro, e di ricreare un senso di direzione comune, non solo individuale, ognuno per se stesso. Però è molto difficile. Quindi è una discussione sul riguardare a attività e modi di fare politica nel passato, di rivedere se i sindacati, le proteste, l'azione diretta sono ancora un modo che ha senso fare in questo mondo contemporaneo, o cercare di inventare nuovi modi di creare cambiamenti. E Critical Mass, che era iniziata già 18 anni fa, è stato un attimo un lampo di una cosa nuova, un modo di riunirsi, di ricreare qualcosa nuovo che può prefigurare cosa potrebbe essere un nuovo movimento che va al di là della vecchia sinistra. Però è una discussione che bisogna continuare a fare, che bisogna continuare a esplorare, e con la speranza, no, che continui, che la gente porta nuova creatività e nuovi modi di fare politica, in senso, per cambiare la società. Sì. Questa non è davvero una domanda, è più. Mi sembra molto bello e interessante che ci siano molti esempi di cose che accadono perché ci sono persone che sentono veramente il bisogno di quello e non perché hanno un dato approccio politico. Mm-hmm. È più un bisogno proprio umano di non ce la faccio più a fare questa cosa tutto il giorno, qua devo ritrovarmi e fare qualcosa che abbia un senso per me. Mm-hmm. E vado a coltivarmi le carote, le zucchine con il vicino. E se trovo veramente positivo, un segno positivo, perché è come se magari si arriva a un livello di saturazione. Sì. So she's saying that she finds this idea very beautiful, that she understands that people who are really fed up and tired and kind of done with their day job, that even if they don't have a political conscience, that is something within them to rediscover their humanity. Mm-hmm. And trying to find another activity, whether it's gardening or whatever it is. And she's kind of inspired by this sense of, even if it's not with a political consciousness, right, but just a sense of survival to keep your humanity. Yeah, great. Yeah. Thank you. Anche io volevo fare un'osservazione su questo. Lui l'ha detto all'inizio, cioè dopo che la composizione di classe era quella della fabbrica, insomma la gente si riuniva insieme al lavoro e quindi lì si ritrovava, con questi nuovi modelli si cerca di riottenere l'opportunità di ritrovarsi insieme, visto che siamo una società del precariato, dell'individualismo, dell'atomizzazione, dove le persone devono lavorare per sé per raggiungere, per prendere i soldi, per fare un lavoro che non gli piace, per prendere i soldi e consumare. E questi esempi sono degli esempi in cui le persone si ritrovano. Non c'è più la composizione di classe che c'era una volta dentro la fabbrica, ma c'è una nuova composizione di classe che è dietro la ciclofficina, è dietro gli orti urbani, è dietro a un centro sociale, è dietro a le femministe che si incontrano e si riappropriano della conoscenza. La stessa cosa con le lotte di cui faceva notare: le persone, per contrapporsi al nucleare, dovevano sapere che cosa fosse il nucleare, e quindi si ritrovavano e insieme studiavano il nucleare. E questo è un modello che rompe con la vecchia sinistra, che si ritrovava dietro la fabbrica, tutti al lavoro, ma si ritrova su quello che è l'essenza stessa della vita, ed è il ritrovarsi in questo modo che ricrea una nuova composizione di classe, perché in realtà la maggior parte di queste persone sono o attivisti, ma sono anche le persone che dal basso e comunque dalla base hanno la necessità di avere un orto urbano, perché alla fine del mese non ci arrivano, hanno la necessità di usare la bicicletta perché devono muoversi con la bicicletta, visto che se no prendono il bus, non possono usare l'automobile. Quindi in questo senso credo che sia una vera e propria ricomposizione di classe. Mm. Scusate. No, niente. So he elaborated on the concept of class composition. Kind of yeah. Well, yeah. Okay. I think he's got it right. Yeah, it pretty much summarized. Yeah. It, so. Ok, ti ha capito? Yes, sì. Ma io il ragionamento che facevo, che secondo me la frammentazione di cui parlavi prima, di cui secondo me qua in Europa non siamo immuni. Anzi, io penso che comunque i movimenti oggi hanno questa incapacità anche di unirsi, di incontrarsi, di creare un percorso comune, proprio per delle spaccature che comunque vengono anche dal passato e soprattutto anche su vari piani ideologici e anche di pratica, ma soprattutto anche perché più andiamo avanti col tempo siamo sempre più confrontati con una repressione sempre più forte, sempre più capillare, che va a scontrarsi proprio comunque con tutta una serie di alternative, di pratiche che vogliono creare un'alternativa per cambiare veramente le cose. Quindi le due cose vanno a pari passo: da un lato c'è questa incapacità di unire le forze, di incontrarsi, di creare un percorso comune, dall'altra il capitalismo, gli stati si stanno sempre più militarizzando, riorganizzando, proprio per cercare di confrontare quello che è un disagio sempre più crescente da parte nelle classi o delle, cioè delle persone comunque che fanno sempre più fatica e quindi non lo so. Io penso che comunque i movimenti oggi devono sì ricreare comunque una base efficace su cui lavorare, soprattutto nella quotidianità, ma anche rendersi sempre più offensivi anche agli attacchi che ci vengono fatti nei nostri confronti. So he's saying that also in Europe, isolation, atomization and fragmentization is happening. Europe is not immune. And he says parallel to that, there's the desperation of people who are precarious and struggling, and at the same time the state is militarizing stronger to suppress any type of rebellion or any type of resistance to this new state of affair with the new liberal attack and the precarization. And so he says it's really important to get involved in the daily activity outside of this atomization, but it's also important to keep in mind that the state is militarizing and that the repression is becoming stronger and absolutely stronger. Yeah. Well, I agree completely. And developed a little, what we call in English, a fractured fairy tale, which you probably heard the story of the tortoise and the hare. The rabbit and the turtle having a race, and the turtle goes very slow, and the rabbit goes very fast. And I reorganized the story. It's actually the tortoise and the gangster. And the nowtopians are the tortoises. We move very slowly. We do the best we can every day. I call that to keep ourselves going, we need radical patience. So we can't stop. We have to stay in the game. We have to fight every day. Push as much as we can, but our strength is not great, and we can't go that far at a time, any given moment. So we move along steadily towards our goals, but we're not going against somebody who's fast. We're going against criminals, you know, who own the corporations and who run the governments, and they will kill us if we succeed. So we have to take that seriously. I completely agree, and I appreciate also that you said is how important it is to take these activities seriously now that we have to learn to be able to reproduce our lives outside of the system as much as we can to create what some people are calling resilient communities, kind of a useful expression for that. Quindi è d'accordo con te, lui ha usato una metafora di questa storia, non so se c'è in italiano, della tartuga e della lepre, la tartuga va lentissimo, la lepre invece va forte, quindi la gente coinvolta in queste attività in utopia sono la tartuga che vanno pian piano però con forza, e anche il concetto di pazienza radicale, di continuare a costruire un movimento pian piano ma con basi solide, è molto importante, però senza dimenticare il fatto che invece nella sua metafora della lepra ci sono dei gangster, dei criminali che i governi, con il supporto delle grandi multinazionali, uccidono le persone, i movimenti, quando si ribellano troppo, e che quindi non hanno nessun problema a usare metodi criminali per sopprimere movimenti, proteste. Però è importante formare, costruire queste comunità, e senza perdere d'occhio lo stato più grande della situazione. Sì? C'era adesso la critical mass, gli occhi cittadini, le officine così, comunque sono delle iniziative prevalentemente urbane, se non sbaglio. Mm-hmm. Adesso appunto, poi vedi, no, che le foto così, è venuto in mente questa cosa. Ma invece nella campagna, nella sterminata prateria e mezzo, cioè, poi pensando, dicevo, poi in Europa, cioè, ci sono delle più o meno grosse, purtroppo non ancora molto conosciute, comunque ce ne sono, c'è Europia in Puglia, queste comuni agricole, cioè Longomai in Francia, cioè nei Paesi Baschi. E dopo, boh, vabbè, è chiaro che noi siamo, viviamo in Europa, chi vuole conoscere la più approccio, però volevo sapere se è una cosa apposta poi concentrata nelle cose urbane o... So he wants to know if this activity are mostly concentrated in an urban area, what happens in the rural area in the United States. He cited some example in Italy and France where there's actually rural communities that are forming, you know, based on that, and if you can speak of anything on his situation in rural areas, or it's actually really specifically urban and that he wants to be urban. Well, I'm interested in urban because I'm a city person, but and I look at those movements more because I think at this point more than half of the world lives in cities, and if we can't solve the problem in cities, we're really in trouble. So this is a place of very important contestation and struggle and invention. But it's true that many things are going on like this in rural areas. The part I know best is Northern California, from San Francisco to the north. And there are really dozens and dozens of intentional communities, permacultural farms, organic farms of different types, people creating what they call resilient communities or transition towns is a movement that started in England. And now many smaller cities, like very small, like 20,000 or 30,000 people, are saying, we are a transition town. And they're beginning the process of planning energy descent, how to live, continuing to live well, produce the food as close to home as possible, and be able to function as a modern society with much less energy. So these are happening, and it's mostly happening in rural and small towns outside of the big cities, more than it's happening in the big cities. But there's a relationship between those two. Lui è principalmente interessato in aree urbane, lui piacciono le città e anche la maggior parte della popolazione vive in zone urbane, quindi pensa che è importante risolvere il problema, questi problemi di il consumo di energia, di come costruire le città, perché la maggior parte vive in zone urbane. Quello che sta nelle zone rurali è più che altro nella California del Nord, da San Francisco in su, e ci sono piccole cittadine che si sono collegate a questo movimento nato in Inghilterra di transition town, città transizionali di transizione da questa società a un'altra che è più efficiente energeticamente. Quindi sono piccole cittadine di 20.000-30.000 persone, ma che stanno pensando a come riorganizzarsi, come consumare energia, mangiare, tutte le cose essenziali per sopravvivere, ma tenendo anche in mente del vivere bene, non di ridursi alla povertà, ma di avere una buona qualità di vita mentre e riducendo il consumo energetico. Più che altro una curiosità, non sì? A livello personale, ma quando parla di utopia e di vita al di fuori degli schemi e quindi della ricerca di qualcosa di diverso, mi fa pensare a un film che era uscito negli Stati Uniti anche qua qualche anno fa, Into the Wild, tutto questo percorso e non so, e pensavo, penso che è un film che è stato visto da milioni di spettatori, ha vinto degli Oscar, non so, sì. E da una parte questo mostra questa volontà di andare a ricercare un'altra, questo. Però dall'altra mi sembra che lasci il fatto di sì, vabbè, sono dei bei sogni, la possibilità, però alla fine non c'è. E la curiosità era, ma negli Stati Uniti, che penso che abbia avuto comunque un successo, un film del genere ha un impatto, o non so, nella maniera di vedere, non lo so, può lasciare una traccia o è semplicemente visto, non so, era una curiosità per sapere come, che influsso potesse avere. Devo dire, c'è in America un po' il mito dell'andare nel selvaggio. È un po' il mito di creazione degli Stati Uniti. So he wanted to know the connection between this movement, Autopia, and the utopic idea. And he said it kind of reminded him of the movie Into the Wild. It was a kind of a two-part thing. So, you know, the movie, yeah, was great, but then, you know, what's after that? Yeah. Is there anything, right? Anything really coming out? And is there any relationship, you know, with the Nowtopia movement? Not so much to the movie, but to the idea of utopia. And then specifically about the movie, if it had any impact on American society. I did introduce saying that there's the myth of going into the wild in the U.S., kind of part of the creation myth. Yeah, and there also from 40 years back and to the present, a lot of people who want to go back to the land. So they have the fantasy as sort of urban people to go to the country where they will live a more pure and natural life. And they don't realize how hard it is to live in the country and grow your own food. And they don't realize how much gasoline they're going to use to live in the country because they're going to drive back and forth to the store all the time. So that myth is out there. The Into the Wild was kind of a specific story of a crazy guy who kills himself. You know, that was a sad story. Although it corresponds to my feeling that nature is trying to kill me. So we tell. Have a debate about nature. litighiamo sulla natura, io e lui. Cosa che... Oh, Dio, sono stanca, scusate. Quindi c'è, lui anche lo riconnette, a parte il mito americano di andare nel selvaggio da solo a conquistare la natura... c'è stato anche dagli anni 60 un movimento di ritornare alla natura, specialmente appunto negli anni 60, e molta gente non si rendeva conto di come era difficile sopravvivere al di fuori di zone urbane e far crescere proprio mangiare, e anche quanto costa, perché se sei fuori dalla città e le distese americane sono enormi, non è come andare nel Mar Cantone, cioè sono proprio ore e ore di macchina, e quindi diventa anche molto molto caro poter sopravvivere, dover fare su e giù per ogni volta, e quindi c'è sempre stato un po' questo mito nella cultura americana. E riguardo al film, era un po' la storia di questo individuo, una storia vera che però alla fine ha solo trovato la morte, quindi è stato un po' uno scoop culturale, ma non penso che abbia avuto un impatto più di quello che c'era già nell'immaginario americano. Sì, sì, no, faccio, sì. Perché sarà l'unica volta che sarà qui, quindi no, va bene. No, va bene. Io volevo sapere, cioè, visto che anche là siete un po' all'avanguardia adesso qua, è quello che sta capitando adesso in Europa, vale a dire che una grossa parte della società si è completamente staccata dal fare con le mani. Fa dei lavori completamente astratti. Perso la capacità del fare già da una generazione. È un problema, cioè, è un problema. Come riuscite voi a interagire? E rispettivamente, pensate che è ancora possibile interagire con queste persone, o che le conoscenze perse è talmente difficile da riacquisire che diventa impossibile? Sì. No, è una buona domanda, perché è un problema. Siamo tutti senza abilità. He talked about the subject of the skilling, mm-hmm. in about, you know, growing food, about any practical, that most of our activities is really cognitive, mm-hmm. or abstract, mm-hmm. and so, you know, what do you think about that? Is there any relationship with older generation who might still have those skills? Absolutely. Because in a future society, if we don't know how to do things, yeah. That's a problem. No, that's a really good question. And actually, I think the Nowtopian movement is very, insofar as it's a movement, it's mostly a lot of specific projects that are engaged, people are engaged with. Very often they are using relationships with people who are much older, who have knowledge that they bring into the process. You know, the old bike mechanics, the old gardeners who knew how to grow learned how to grow food back in World War II during Victory Gardens period. So there's these very important historical relationships that are part of those projects. And it's really, the key issue is, how do we know how to do something? Because most of us don't learn anything like that as we grow up. And in these projects is exactly what you're learning. It's you're sharing skills, you're learning about technologies, you're learning the basic things. And then typically people are quick to turn around and share it with somebody else. So I feel like this is an area of diffusion of knowledge that's really quite important as an antidote to the de-skilling that industrialized society has imposed on us. So I'm actually pretty enthused about that. I also would just mention a funny organization in the Bay Area is called the Society for Industrial Archaeology. And their mission is to save all the intermediate steps of industrial development, since everything is now digital. We don't know how to make all those machines in between, from the beginning of machine era to the present. So their job is trying to find the people who remember how to make steel the old-fashioned way or build a railroad the old-fashioned way and somehow gather that information. So it's a little bit quixotic, but it's a fun project. È una questione molto importante, perché la maggior parte di noi non ha più quelle capacità, quelle conoscenze concrete. Ed è una debolezza dei movimenti, questo lo aggiungo io, non l'ha detto lui, perché se non conosciamo le cose principali per come sopravvivere, se come crescere e mangiare, ci hanno veramente imprigionati, e dobbiamo severamente vendere il nostro lavoro in quel senso. Quindi lui dice che attraverso queste attività di Nautopia, quello è uno dei goal anche, di compartire, condividere, trasmettere queste conoscenze concrete, e che c'è uno sforzo di contattare le vecchie generazioni che hanno ancora queste abilità e queste conoscenze di tecnologia, più bassa tecnologia. Ormai siamo così nel digitale, le nuove generazioni probabilmente non sanno niente dell'industria meccanica, no? È tutto digitale. E quindi poi lui parla di una società un po' così, organizzazione un po' strana a San Francisco, la società per l'archeologia industriale, che cercano di riscoprire e mantenere i vari i vari passi dell'industrializzazione dall'inizio fino all'era che siamo adesso, per rimparare, riappropriarsi di tutta quella conoscenza e tecnologia che è più bassa tecnologia, ma importante per capire come funzionano le cose, come sopravvivere in un mondo diverso. I propose we go down and eat and they can join us for a conversation. Okay. Penso che siamo stanchi, sì. E magari ha detto che possiamo andare giù e avere conversazioni un po' informali. Sì, va bene a tutti. Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore. Maggiori informazioni su scatolanera.noblogs.org.